Allora, qua devo partire subito appena arrivato dal ristorante e è rimasto indietro quello che era venuto con me, che è Giampaolo Capisani, che è un altro della rivista che abbiamo, di cui è uscito il primo numero. E questa rivista si chiama Conflitti Globali, ecco, perché l'abbiamo fatta. L'idea di fare una rivista è nata all'interno dell'Università di Genova, dove molti di noi operano, e l'idea era quella di cercare di mettere in una circolazione più ampia quelle che erano i percorsi di ricerca su cui eravamo attivati. Ecco, l'ambizione era quella di non fare una rivista solo accademica, di fare una rivista che in qualche modo riuscisse a fare uscire quelli che erano i dati delle nostre ricerche. E come particolarità, la particolarità di questa rivista, i punti da cui siamo partiti sono essenzialmente due. In primo luogo porre la questione della guerra, quindi le questioni strategiche, le questioni militari, in una posizione centrale. Ecco, per quale motivo? L'idea di partenza era quella che esistesse una tendenza a trascurare le questioni belliche, le questioni militari, le questioni strategiche, manifestata da una parte dalle scienze sociali in generale, dall'altra diciamo così dal pensiero critico o di sinistra più in particolare. Ecco, perché le scienze sociali non parlano della guerra? Perché le scienze sociali tendono a non considerare le questioni belliche e strategiche? Ecco, se si prende l'opera, che ne so, di Weber e Durkheim, due padri della sociologia, si vede che si occupano più o meno di tutto, si occupano delle cose più strane, delle cose più diverse, ma non si occupano mai di guerra, pur avendo entrambi partecipato alla prima guerra mondiale. Ecco, l'idea che sottostà a questo tipo di opzione è probabilmente che la guerra rappresenta una specie di emergenza, una specie di interruzione del corso normale dei fatti, una specie di interruzione delle dinamiche classiche della società, per cui la guerra è l'emergenza e come emergenza inconcettualizzabile, incomprensibile, mentre e quindi lo sguardo del sociologo si indirizza appunto verso la pace, verso quindi quel periodo in cui la dimensione delle relazioni sociali scorre nella normalità. Ecco, questo tipo di modello in realtà è paradossale se lo consideriamo alla luce, ad esempio, della storia del Novecento. Prendiamo il Novecento, potremmo prendere altri secoli, perché la guerra nel Novecento non rappresenta certo l'eccezione, non rappresenta certo un elemento marginale, un elemento residuale come potevano pensare alcuni teorici come Comte, che pensavano appunto che il progresso avrebbe eliminato la guerra, che le relazioni commerciali avrebbero eliminato la guerra. Ecco, anche nel periodo del Novecento si scopre che la guerra non è l'eccezione, ma la guerra è la normalità, che non solo perché avvengono numerose guerre, ma perché anche gli assetti che si danno nella pace sono leggibili solo a partire da quello che sono stati i risultati della guerra. Ecco, per intendere cosa voglio dire, se si considera la politica italiana del dopoguerra, certo, quello è un periodo di pace, teoricamente, però risulta incomprensibile se non si considera le dinamiche politiche avvengono sulla base di una guerra che è finita, che ha avuto vincitori e vinti, conflitti che hanno e quindi la guerra ha portato praticamente è stata costitutiva di un determinato ordine, e che comunque è in corso un altro tipo di guerra, che è appunto la guerra fredda. Ecco, quindi un primo punto di partenza per noi è stato quello del fatto di eliminare questa specie di esorcismo nei confronti delle questioni belliche, delle questioni militari, tipico delle scienze sociali, a partire appunto da questa idea che la guerra non fosse poi questa eccezione che molto spesso si diceva. Ecco, poi dal punto di vista invece più politico, si potrebbe dire che la sinistra ha sempre avuto un po' di difficoltà a considerare il tema della guerra, le questioni belliche. Ad esempio, sì, vede, ecco, per tenere per stare su cose molto quotidiane, se vediamo in TV gli esperti di questioni militari che vengono talvolta chiamati nelle trasmissioni televisive, sono figure spesso grottesche. Forse avete visto Nativi, che è il tipo che solitamente ride dopo aver descritto l'effetto terribile di qualche ordigno, o Yakia, che è quello con aspetto da avvinazzato, oppure Mergelletti, che è quello con aspetto più pretesco. Ecco, personaggi di questo tipo manifestano appunto quella che è una loro provenienza, che non è certo di sinistra, mentre esperti di questo tipo di questioni, orientati politicamente in maniera diversa, non ne esistono. Anche a livello storico, il solito che si occupa di storia militare è di destra. Quindi l'idea era anche in qualche modo quello di investire questo tipo di terreno, non lasciarlo, diciamo così, solo ad altre voci. E soprattutto ci sembrava che fosse importante andare su questo terreno, soprattutto in una fase che ci sembrava caratterizzata da una serie di cambiamenti che proiettavano la dimensione bellica in ambiti che sulla base degli schemi classici del moderno con la guerra avevano poco a che fare. Per cui tutti abbiamo presente un tipo di schema in cui la guerra è solo guerra fra stati, per cui la politica all'interno delle frontiere si dà la politica e si dà al limite l'attività di polizia, mentre la guerra è riservata all'esterno, all'interazione nell'arena internazionale. I militari intervengono all'esterno, mentre all'interno intervengono le forze dell'ordine, interviene l'attività di polizia. Quindi abbiamo nella modernità politica questa idea di una distinzione fra interno ed esterno, una distinzione fra guerra e pace, perché appunto tradizionalmente le guerre erano dichiarate e, essendo dichiarate, erano anche concluse, si arrivava a dei trattati di pace. Esisteva una distinzione fra militare e civile, certo, poi nel concreto queste distinzioni magari erano meno rigorose di quanto magari oggi talvolta si pensi, però erano dei criteri che permettevano di orientarsi, permettevano di leggere il mondo. Ecco, l'impressione che abbiamo in questi ultimi anni è che questo tipo di coordinate funzionino assai meno per orientarsi. Ad esempio le guerre non vengono più dichiarate, si può pensare che è semplicemente un aspetto formale, ma forse è meno formale se pensiamo che oggi uno dei problemi con cui dobbiamo fare i conti è col fatto che le guerre non si concludono, non giungono mai a una conclusione. La distinzione fra interno ed esterno, ecco, se pensiamo al fatto che le guerre negli ultimi anni sono state combattute come operazione di polizia internazionale, quindi col riferimento all'attività di polizia tradizionalmente riservata all'intervento all'interno delle frontiere, oppure viceversa che si utilizzino dei sistemi chiaramente militare, ad esempio per pattugliare le frontiere, che è un'attività invece di tipo poliziesco, o il fatto che la distinzione fra militari e civili sia assai difficile da tracciare, non solo perché la maggior parte delle vittime delle guerre sono oggi civili e non militari, ma anche perché, ad esempio, qual è lo statuto ad esempio dei mercenari, dei contractors, sono militari o sono civili? E dal punto di vista, ad esempio, dell'attività dei contractors o dei nuovi mercenari si può notare un'assoluta continuità fra l'impegno in scenari che definiremmo di guerra e in scenari che tradizionalmente avremmo definito di ordine interno o di polizia, tra virgolette, ad esempio quando furono sequestrati i primi italiani sequestrati, Stefio e gli altri, adesso non ricordo più come si chiamavano, cosa si considerava la biografia di costoro, si vedeva questa continuità. Prima alcuni di loro facevano i buttafuori nelle discoteche e quindi il contractor è una figura che copre una gamma di servizi, tra virgolette, di sicurezza che vanno dall'ingresso delle discoteche al fatto di combattere in Iraq. Ecco, questo fatto appunto che una serie di distinzioni molto chiare che ci permettevano di inquadrare la realtà fino a qualche anno fa abbiano in qualche modo declinato, però è testimonia appunto del fatto appunto che la guerra non sta più nell'ambito limitato in cui forse stava in precedenza e che in qualche modo risulta necessario diciamo così, riflettere criticamente su una serie di aspetti, proprio perché non riguardano più semplicemente le relazioni internazionali, ossia la pace e guerra fra le nazioni, ma anche tutta una serie di dinamiche che in passato avremmo definito di politica interna. Ad esempio, pensiamo alla questione delle migrazioni e quanto per leggerle sia necessario in qualche modo tenere conto di tutta una serie di aspetti nella loro gestione che sono eminentemente militari. Ecco, quindi questo è un po' la griglia che ci ha spinto, diciamo così, a focalizzare l'attenzione su alcuni punti. E della rivista è uscito il primo numero che ha come titolo La guerra dei mondi, per cui anche nel prosieguo vogliamo tenere un po' questa struttura, con da una parte un corpo monografico, nel primo numero è appunto sulla guerra, e in qualche modo considera sia una serie di scenari degli ultimi anni, sia una serie di autori che hanno in qualche modo anticipato con le loro letture il paesaggio nei confronti dei quali oggi ci poniamo. Questi autori possono essere Ernst Jünger, Foucault o Deleuze e Guattari. Poi vi è una parte che si chiama Spettri, che è destinata ad accogliere diciamo così, dei classici che ci interessa riproporre. Nel primo numero abbiamo un saggio di Edouard Said sullo scontro di civiltà e un curioso saggio di Max Weber intitolato Fra due leggi, che comparve in una rivista femminile tedesca durante la prima guerra mondiale, una specie di Max Weber che scrive per Anna o Donna Moderna, ovviamente con uno stile che oggi probabilmente non sarebbe mai accolto da queste riviste. Poi abbiamo una sezione che si chiama Materiali, in cui convergono ricerche di carattere più empirico, e nel primo numero abbiamo in particolare due ricerche sul terreno sul Kosovo. Ecco, ci è stato fatto notare che poteva essere un elemento in qualche modo di ritardo della rivista, per cui in uno scenario in cui c'è stato l'Afghanistan, c'è stato l'Iraq, occuparsi del Kosovo può sembrare in qualche modo un ritorno su uno scenario trascorso. Ecco, in realtà, certo, mi sarebbe piaciuto avere ricerche sul campo sull'Iraq, ma immagino che prendiate conto che non sia agevolissimo. Ma il fatto di pubblicare due ricerche sul Kosovo, a mio parere, ha anche una sua rilevanza da un altro punto di vista, ossia magari sarà un tema su cui avremo modo di ritornare, però da parte di alcuni è stata colta una discontinuità fra il Kosovo e le guerre che sono venute dopo. Ecco, su questa continuità francamente io e altri siamo assai perplessi. Ad esempio è indicativo che tra coloro che si sono opposti alla guerra all'Iraq, una delle motivazioni era che non c'era la legittimazione dell'ONU. Ecco, anche nel caso della guerra in Kosovo non c'era alcuna copertura da parte dell'ONU. Ecco, quindi questo fatto di recuperare, diciamo così, il discorso del Kosovo forse può essere utile per cogliere il fatto che forse non ci sono state tutte queste rotture fra il prima e dopo 11 settembre come in qualche modo una certa linea di ricerca o una certa retorica vuole affermare. Ecco, poi concludo dicendo, insomma, il prossimo numero avrà che è lavorazione in questi giorni, avrà come titolo Fronti e Frontiere, si focalizzerà appunto sulla questione delle frontiere, e il numero successivo invece sarà, avrà il titolo Fighters e sarà appunto sui combattenti. Poi un'idea di una mappatura, diciamo così, delle tipologie di combattenti, diciamo così, dal contractors al terrorista, al partigiano, cercando anche di fare un po' di chiarezza su tutta una serie di definizioni a cui si è soliti ricorrere. Ecco, adesso magari passo a Giampaolo, che è un collaboratore della rivista e diciamo così, da posizioni non sempre, diciamo così, in sintonia con quello che è il mainstream della nostra proposta.